America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Beh, siamo nel 2013 e parliamo di scenari. Dunque, oggi vorrei dedicare lo scenario a quello che è un po' il nostro punto di forza come gruppo Sole 24 Ore, come Radio 24, come America 24, cioè affrontare più la tematica economica. Beh, l'America è un po' a una svolta, è riuscita in qualche modo a rimettersi su un sentiero di crescita, però non è chiaro se poi il 2013 questa economia continuerà a crescere. Abbiamo visto che la Federal Reserve ha dato delle indicazioni che la sua politica monetaria sarà accomodante fino a quando il tasso di disoccupazione non sarà sceso al di sotto di un certo livello, cioè del 6,5-6,6%. Quindi sembra che ci sarà ancora un percorso abbastanza lungo di accomodamento. La chiave che tutti cercano è quella che porta alla crescita. Ecco, io con me ai microfoni di America 24, Massimo Gaggi. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Massimo Gaggi, corrispondente degli Stati Uniti del Corriere della Sera. E vorrei parlare, Massimo, con te un po' di una dinamica breve e di una dinamica lunga, perché se guardiamo al 2013 dobbiamo poi guardare anche un po' oltre. Insomma, si è parlato di declino americano, si è parlato di declino americano in relazione alla Cina, si è parlato di ricette sbagliate, poi però questa America continua a crescere, tutto sommato ha macinato degli occupati. Barack Obama è uno dei pochi leader occidentali che è stato confermato al suo posto di lavoro. Ecco, se tu dovessi fare un piccolo bilancio, ma soprattutto se tu dovessi darci una prospettiva per quel che sarà il 2013 dal punto di vista economico, cosa dici? Dico che hanno sicuramente funzionato in qualche misura gli stimoli fiscali, ma l'America nel suo complesso, al di là degli interventi pubblici sull'economia, i sostegni fiscali, i sostegni contributivi sul lavoro, eccetera, ma l'America nel suo complesso si è rimboccata le maniche, ha cercato di diventare un paese più competitivo, di abbassare i suoi costi di produzione, e quello che abbiamo visto in quest'ultimo anno, la riattivazione dell'industria dell'auto o altri settori manifatturieri, è molto significativo. Una cosa che personalmente mi ha colpito molto è la notizia che il 2013 sarà anche l'anno in cui la Apple riporterà negli Stati Uniti alcune produzioni chiave come quelle dei Macintosh, computer che sono prodotti ormai da molti anni in Cina. Per adesso iPhone e iPad continueranno ad essere assemblati in Cina, ma comunque il cuore di questi gioielli tecnologici che abbiamo tutti nelle nostre tasche è comunque un cuore americano, prodotto, i microchip sono prodotti negli Stati Uniti, gli schermi touchscreen sono prodotti in Kentucky, quindi insomma è un'America che torna a essere centro di manifatturiero nei settori tradizionali come quelli della meccanica, ma anche in quelli delle altre tecnologie. Quindi ecco, sì, infatti mi ha colpito molto anche a me, devo dire, non soltanto l'Apple Computer, cioè abbiamo visto la Whirlpool che a un certo punto rientra in America, abbiamo visto produttori di lavatrici, produttori di come dire, prodotti al consumo pesanti che è difficile o comunque costoso importare dalla Cina. Abbiamo anche testimoniato un aumento del costo del lavoro in Cina, quindi qualche cosa sta cambiando, nel senso che la forza lavoro americana proprio sul settore manifatturiero, come tu stesso dicevi, si è rimboccata davvero le maniche, al punto che molti autori in alcune importanti università americane hanno scritto saggi e papers che parlano di rinascimento del manifatturiero in America. Ecco, alla luce di questo, noi stiamo facendo le cose giuste secondo te in Italia o no? È molto difficile giudicare perché i due modelli sono profondamente diversi. Ovviamente gli Stati Uniti hanno usato molto la leva degli stimoli fiscali, hanno rischiato molto, stanno rischiando ancora tuttora molto sul piano anche della politica monetaria con la Fed, anche perché hanno appunto la scialuppa di salvataggio del dollaro che possono saltare senza limiti in qualche modo, e sono comunque il paese di rifugio per definizione. Questi sono vantaggi che noi in Italia e l'Europa in generale non ha, e quindi probabilmente per noi fare tutto questo sarebbe stato molto diverso, molto più complicato. Poi noi abbiamo un sistema di welfare molto più pesante, molto più garantista, al quale è difficile rinunciare, che però ci rende impossibile competere con i paesi emergenti sui costi di produzione. C'erano delle similitudini tra il sistema produttivo europeo e quello americano fino a qualche anno fa. Io ho l'impressione che sono due modelli che stanno allontanandosi sempre di più. Questo non significa che quello americano alla fine funzionerà fino in fondo, sia perché si potranno creare delle situazioni di stabilità finanziaria anche in futuro, ma soprattutto perché riportare in patria le produzioni manifatturiere è qualcosa di sicuramente molto importante dal punto di vista strategico, ma non è detto che risolva il problema di fondo di una società, che è quello dell'occupazione, perché queste produzioni che rientrano sono in larga misura produzioni automatizzate, fabbriche che creano grandi volumi di fatturato, grandi aumenti di ricchezza, ma poco lavoro. Sì, Massimo, tutto vero, quadro assolutamente perfetto, cristallino, però ci sono dei vantaggi, perché per esempio è vero che è molto automatizzato, però nel momento in cui tu riporti le lavatrici in America l'indotto è di 3 posti di lavoro per ogni posto di lavoro manifatturiero creato, perché poi devi usare il trasporto, devi usare i treni, devi usare la gomma, a quel punto devi usare l'energia, devi usare la benzina, ci sono i distributori di benzina, insomma c'è tutta un'economia che con questo manifatturiero si mette in moto. Ecco, e arrivo al punto. Il manifatturiero americano è flessibile e elastico, lo sentiamo ripetere spesso da Marchionne, che chiede più flessibilità in Italia, dice che noi non siamo competitivi, restiamo nonostante tutto e nonostante alcune delle riforme della Fornero, del governo, ma un paese con una forza di lavoro rigida. Ecco, secondo te, primo, è vero, secondo, non dovrebbe essere questo uno degli argomenti centrali in campagna elettorale? La prima domanda, la risposta è sì, è sicuramente vero, tant'è vero che è stata fatta anche una riforma del mercato del lavoro per cercare di affrontare il tema di questa rigidità, riforma che poi a quanto pare non sta funzionando così come era stato immaginato dal governo dei tecnici, ma comunque visto che è stata votata a grandissima maggioranza vuol dire che il problema è riconosciuto ampiamente, è un problema esistente che va affrontato. L'America, la rinascita del manifatturiero la sta gestendo attraverso due meccanismi. Uno, portare la produzione più vicina ai mercati di consumo, perché continua ad esserci una forte domanda di consumo. B, flessibilità del lavoro, costi bassi e lavoro flessibile. Noi purtroppo in Italia siamo carenti su tutti e due i fronti. Uno, quello della flessibilità, perché appunto abbiamo visto che nelle fabbriche spesso e volentieri è difficilissimo adattare la produzione alle esigenze della domanda. E abbiamo un problema di domanda, perché purtroppo le politiche sono state necessarie per rimettere a posto il bilancio dello Stato, hanno sottratto risorse dalle tasche della gente, e quindi abbiamo un problema di contrazione della domanda interna che rende meno conveniente andare a produrre vicino ai mercati. Ecco, torniamo all'America e al futuro lontano, perché qui abbiamo una dinamica competitiva ormai globale, la Cina che preme, i paesi dell'estremo oriente che stanno crescendo direi in modo forsennato, le economie africane che stanno cominciando ad emergere. Time Magazine ha fatto una copertina sulla ripresa africana, sul rinascimento africano, l'Economist stesso, che 10 anni fa parlava di un continente privo di speranza, dice beh no, questo di nuovo c'è un rinascimento africano, quindi c'è un contesto globale molto attivo, il Brasile, ecco, in tutto questo, guardando nel medio-lungo termine, come vedi l'America? L'America ce l'ha descritta abbastanza bene nel rapporto 2030 Global Trends, redatto da 17 agenzie di intelligence degli Stati Uniti, che è stato pubblicato da poco. È un'America che è destinata ad avere tassi di crescita comunque ridotti rispetto a quelli che ha sperimentato nel primo mezzo secolo del dopoguerra, quindi continua a crescere più dell'Europa, ma perde terreno rispetto ai paesi asiatici e soprattutto rispetto alla Cina, e che quindi diventerà inevitabilmente la seconda potenza economica, non più la prima, ma che mantiene comunque per molti decenni una posizione di leadership e di grande forza economica, perché da un lato avrà comunque una leadership delle tecnologie e recupererà autonomia energetica grazie alla scoperta di nuove fonti di idrocarburi, sia petroliferi sia lo shale gas, e dall'altro continua ad avere ovviamente una leadership militare, una potenza militare che le garantisce ancora un ruolo internazionale di gendarmi che nessun altro paese può svolgere. Ecco, parliamo di petrolio, hai sfiorato la questione energetica, insomma l'America diventerà nel giro di pochi anni esportatore netto, il fracking sembra funzionare, cosa ci dici dell'energia? Quando leggi che tra qualche anno produrranno più petrolio dell'Arabia Saudita e più gas della Russia, questo ci dice già tutto. È un paese che tra l'altro con l'apporto privilegiato che ha col Canada, altro grande produttore di energia, arriverà molto rapidamente all'autosufficienza energetica. Questo ovviamente comporta anche il rischio, quello di sedersi sugli allori, quello di non ricercare più, quello di non impegnarsi più con determinazione sulle energie alternative, però certamente nel breve e medio periodo gli darà un ulteriore vantaggio competitivo molto significativo e soprattutto renderà l'America meno sensibile a quello che succede in Medio Oriente, quindi quelli poi diventeranno problemi dell'Europa e del Giappone e della Cina, cioè la stabilizzazione del Medio Oriente come fonte primaria di energia per queste altre aree del mondo. I Stati Uniti potranno farne a meno. Massimo, tra 4 anni Barack Obama finirà il suo secondo mandato, l'inaugurazione il 31 gennaio, come sarà ricordato? Come un presidente che ha rimesso l'America in carreggiata dal punto di vista economico? C'è chi pensa che l'America rischia ancora di finire in un nuovo ciclo recessivo. Io ti do una risposta più ottimista, ti dico invece che sarà ricordato probabilmente come uno che ha rimesso in carreggiata, ma te lo dico non con le mie parole, ma con quello che sembra essere il pensiero di Bill Clinton quando suggerisce a sua moglie di restare in corsa per il 2016 e il motivo vero per il quale ha fatto campagna a favore di Obama con tanta determinazione, perché è convinto che dopo altri 2 anni di grande sofferenza l'America riuscirà a risanarsi e negli ultimi 2 anni del mandato di Obama ci sarà una ripresa molto forte che quindi favorirà il candidato democratico che si presenterà nel 2016. Quindi se la previsione di Bill Clinton è fondata, e potrebbe esserlo, la risposta alla tua domanda è positiva. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Beh, eccoci alla canzone del giorno. Siamo nel 2013. Prima canzone del 2013. Voglio dedicare queste prime canzoni dell'anno ad alcuni artisti che sono emersi recentemente, nuovi artisti, cose fresche e che secondo me scopriremo ancora di più nel 2013. Dunque comincio con una canzone dedicata ai Rara Riot, una band indie rock che sta qua a New York, upstate New York, e sarà in concerto qui in città il 24 gennaio. Rara Riot, Better Love. Golden light, don't know why. If I run to you, would you stay? I might be a prototype, but we're both real inside. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going!